bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, e abbiamo terminato il primo capitolo, intitolato La vita è una lotta. Abbiamo visto dunque, cari amici, come è la visione cristiana della vita, cioè il tempo che ci è dato di vivere qui su questa terra è il tempo della prova, è il tempo della battaglia, ma anche il tempo in cui noi possiamo già avere in anticipo le gioie del cielo, quindi non è soltanto una valle di lacrime la vita, ma certamente un tempo di prova, non c'è dubbio al riguardo, quindi va affrontata con lo spirito con cui si affrontano le prove. Una prova che, se vogliamo, una prova, ma anche una lotta, un impegno, dove però la posta in palio è la più alta possibile, e cioè la salvezza eterna della nostra anima, cioè nel tempo della vita si decide il nostro destino eterno. Questo è lo spirito con cui noi dobbiamo affrontare il tempo della vita, cioè la vita qui sulla terra. Noi in questo tempo possiamo perdere tutto, tutti i beni materiali, tutte le persone care, possiamo perdere tutto, compresa la vita stessa, quella del corpo. L'importante è non perdere la propria anima, perché l'esito di questa vita è per sempre. E cioè l'anima è salvata per sempre, come l'anima è perduta per sempre. In questo tempo di prova abbiamo tre nemici, cari amici, abbiamo detto che sono la carne, il mondo e il maligno. Di questi tre, il più pericoloso è la nostra carne, cioè il nostro io, siamo noi stessi. Per quale motivo? Perché noi, soltanto noi, scioccamente, stupidamente, potremmo metterci in balia di quel nemico tremendo che è il maligno. Ma se noi siamo vigilanti, Satana non può farci nessun male senza il nostro consenso. Tuttavia, la sua pericolosità è grandissima, cari amici, per quale motivo? Perché lui, sapendo che l'uomo è orientato al bene, sapendo che l'uomo cerca la felicità, ecco che gli presenta, e qui sta la sua astuzia, la sua abilità di falsario, gli presenta il male sotto forma di bene per ottenere il suo consenso. Infatti Satana sa benissimo che non può avere, che non può averci senza il nostro consenso. Non può averci senza il nostro consenso. Allora cerca di ottenere il consenso. Ma per ottenere il consenso deve presentarci per forza il male sotto aspetto di bene, perché l'uomo è tendenzialmente orientato al bene. Infatti la libera volontà, dice San Tommaso, è appetitus boni, desiderio di bene. E Sant'Agostino prima di lui diceva che ogni uomo cerca la felicità. Allora Satana presenta le sue felicità cercando di catturare il consenso dell'uomo. Naturalmente Dio, nella sua misericordia, ci dà la possibilità cogliere l'inganno satanico, se non prima dell'inganno attraverso il discernimento, perché Dio ci dà la possibilità di vedere l'inganno anche prima attraverso il discernimento, ma comunque ce la dà sempre dopo, attraverso il rimorso della coscienza e attraverso l'esperienza che il bene che Satana ci offre è un male che fa male. E quindi Dio ci aiuta a scoprire l'inganno satanico quando sperimentiamo che il peccato ci deprime, ci degrada, ci rende infelici. Dunque, ecco dunque per quale motivo Satana è per forza un falsario. È perché per ottenere le nostre anime, per diventare il padrone delle nostre anime, ha bisogno del nostro consenso. Per ottenere il nostro consenso deve falsificare le carte e quindi presentarci il male sotto forma di bene affinché noi abbocchiamo. Ma c'è un'altra esigenza da parte del maligno. Siccome l'uomo è orientato al vero, al bello, è orientato a ciò che è buono, no? A ciò che è affascinante, perché l'anima umana è creata da Dio, d'immagine di Dio. E quindi l'anima umana è affascinata da ciò che è bello, che è vero, che è buono, che è santo, che è giusto. Allora Satana non può mai farsi vedere così com'è, perché lui è esattamente il contrario, lui è il falso, lui è il cattivo, lui è il malvagio, lui è il perverso. Se noi vedessimo così come Satana è, avremmo un tale orrore che rifuggiremmo da lui. Infatti non è raro il caso che alcuni, proprio vedendo non solo un indemoniato o partecipando a una seduta spiritica, si spaventano così tanto dall'orrore di Satana che ritornano a Dio. Quindi Satana ha l'esigenza di nascondere se stesso, oppure di camuffare se stesso. Lui cosa fa? O si nasconde perché? Perché se naturalmente il nascondersi facilita a lui le possibilità di acciuffare la preda. Gli uccelli si accorgono che nel raggio di qualche decina di metri c'è il cacciatore, se ne vanno via. Così pure anche i pesci, se si rendono conto che c'è una rete da pesca nei paraggi, se ne vanno via. Satana sia perché lui stesso è tale nella sua natura di angelo pervertito, fa orrore all'uomo. Allora lui ha bisogno di nascondersi, perché è un perverso e perché se si mostrasse così com'è farebbe orrore all'uomo. Ha bisogno di nascondersi, inoltre ha bisogno di mimetizzarsi per poter impadronirsi delle sue prede. Quando si mostra all'uomo, si camuffa, cioè veste i panni di un benefattore, come ha fatto con Gesù, al quale dice appunto: io ti do tutti questi regni, come se fossero suoi, no? Se tu prostrato mi adorerai. Ecco, Satana si presenta come colui che ci dà dei benefici. Allora, la natura perversa del maligno fa sì che lui si celi, la sua attività di cacciatore di anime fa sì che lui debba nascondersi. Il suo più grande trionfo è quando una società nega la sua presenza. Le sue più grosse soddisfazioni è quando qualche teologo scrive, come anche recentemente sono usciti i libri sul demonio, in cui si dice: ma queste sono credenze antiche, anche quando Gesù caccia i demoni, ma sono un modo di pensare, un modo letterario di esprimersi, in realtà non esiste il demonio, o se esiste, sì, forse si identifica un po' col denaro, ma insomma tutte queste forme con le quali il demonio viene negato o viene dipinto come inoffensivo, o comunque in procinto di convertirsi appena Dio gli dà il permesso, per Satana sono manna. Capite bene, sono manna. Per quale motivo? Perché in questo modo le anime non sono più vigilanti, le anime si disarmano e quindi per lui è più facile circuirle, è più facile incantarle, è più facile catturarle. È chiaro che se la gente pensa che il demonio non c'è, neanche si arma contro di lui, neanche vigila contro di lui, neanche usa le armi della luce. Per cui il più grande successo di Satana, Satana non si offende quando lo si nega, cioè lui non si offende mica quando si nega la sua presenza, è tutto contento. Perché? Perché gli si facilita il compito e l'obiettivo che a lui sta a cuore, e cioè quello di catturare le anime per formarsi un suo regno da contrapporre a quello di Dio. Allora noi nel secondo capitolo, cari amici, affrontiamo una espressione biblica che riguarda Satana. Come sapete, il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, è un libro che si basa esclusivamente sulla Bibbia e sul Catechismo della Chiesa Cattolica, e vi dico che ce n'è d'avanzo. perché anzi non è neanche sfruttata tutta la Bibbia, perché a certi punti meglio fermarsi lì perché fa paura, perché la luce di Cristo ha svelato fino in fondo la malvagità del perverso. Allora, noi prendiamo in esame i vari titoli di Satana con cui è chiamato nella Bibbia. Uno di questi è il principe delle tenebre. Che cosa vuol dire che Satana è il principe delle tenebre? A mio parere si possono dare due significati a questa espressione principe delle tenebre. Un primo significato è quello che vi ho accennato, e cioè che Satana vuole nascondersi, ama la tenebra per nascondersi. Si nasconde per catturare le nostre anime. Seconda dicitura, la parola tenebra, secondo significato, la parola tenebra si oppone alla parola luce, quindi è il suo regno, il regno della menzogna, il regno dell'odio, il regno del peccato, il regno della cattiveria, è il regno della morte spirituale. Ecco cosa vuol dire tenebre, tenebra nel senso proprio della mancanza della luce della verità e della luce della santità e della luce della bellezza. Adesso vediamo, cari amici, dunque, i paragrafi di questo capitolo. Questa mattina faremo il primo paragrafo, che è molto importante sotto il profilo dell'utilità spirituale, è intitolato Satana si nasconde, che è il nostro libro, che è qui il mio libro, è a pagina 14. E scrivo, diversamente dagli uomini, Satana non ama il palcoscenico. Non ama il palcoscenico, cioè non ama che si parli molto di lui e che si parli come si deve parlare, cioè manifestando la sua perversità. Certamente Satana non gradisce affatto queste catechesi che stiamo facendo a Radio Maria, tanto più che sono poi basate sulla Bibbia e sul catechismo della Chiesa Cattolica, e quindi gettano proprio la luce della parola di Dio sulla sua perversità. Certamente non ama che si parli di lui. Lui non ama il palcoscenico, non ama essere in prima pagina. A lui piacerebbe tanto che non si nominasse mai. Così può fare naturalmente i fatti suoi, che sappiamo sono molto pericolosi nei nostri confronti. Dunque, diversamente dagli uomini, Satana non ama il palcoscenico. Non lo fa per umiltà, perché il suo immenso orgoglio non glielo consentirebbe. Lo fa però per utilità. Quindi Satana non ama essere nominato, non ama il palcoscenico non per umiltà, ma per utilità. Perché nascondersi giova al suo scopo, che è quello di adescare le anime per appropriarsene. Questo è il suo obiettivo. Adesca le anime per appropriarsene e farne gli schiavi del suo regno di morte. Questo è il suo obiettivo, questa è la ragione della sua infaticabile presenza nel mondo, la sua infaticabile opera nel mondo. Hai mai visto i cacciatori mostrarsi apertamente davanti alla selvaggina? Se lo facessero, il loro carniere resterebbe vuoto. Essi si appostano in luoghi nascosti e attendono pazienti che la preda ignara si avvicini. Quando sono certi che non può sfuggire, assestano il colpo uscendo allo scoperto. Ma Satana non esce allo scoperto neanche quando ha assestato il colpo, perché lui, perché tu rimanga suo prigioniero, bisogna che tu non sospetti che sei suo prigioniero. Perché se tu ti accorgi che sei suo prigioniero, magari c'è il rischio che la paura ti prenda e incominci a pensare di divincolarti. Quindi, diversamente dal cacciatore, Satana si nasconde non solo prima, mentre si apposta, ma anche dopo che ti ha catturato si nasconde. Per cui molte persone sono schiave di Satana, ma sono proprio loro che dicono che Satana non c'è. Satana è un cacciatore d'anime e da abile professionista si nasconde. Dovrebbe essere Satana proclamato patrono dei cacciatori, perché sarebbe per loro un modello straordinario di come ci si nasconde e di come si lancia l'esca. L'ambiente ideale nel quale egli può muoversi a suo piacimento è quello in cui la sua esistenza è ignorata e perfino negata. Quindi, cari amici, in un mondo in cui si mette in dubbio che esiste il maligno, o lo si chiama povero diavolo, o si fanno le barzellette su di lui è tutto contento. Perché, dice, finché, capisci bene, perché in questo modo si mette in dubbio non solo la sua esistenza, ma la sua pericolosità, e quindi lui è facilitato nella sua opera. Non pensare, caro amico, che Satana si offenda se tu lo trascuri, se tu non lo nomini, se tu non pensi a lui. Al contrario, come osserva acutamente lo scrittore francese Baudelaire, cerca di convincere il mondo che lui non esiste. Hai capito? C'è Baudelaire nel secolo scorso che Satana cerca di convincere il mondo che lui non esiste. Non se ne ha male neppure se viene sottovalutato. Il fatto di essere considerato un povero diavolo non lo mette di malumore. L'essenziale per lui è che le prede entrino nella sua rete. Allora egli ne fa quello che vuole. Mi pare tutto chiaro, cari amici. La somma convenienza che il demonio ha, che non si parli di lui, che si neghi la sua esistenza, che lo si dipinga inoffensivo o addirittura prossimo alla conversione. Lui si frega le mani, seppure le ha, quando si mette in dubbio la sua esistenza o la sua perversità. Nel mondo d'oggi il maligno si trova particolarmente a suo agio. In un clima culturale in cui il soprannaturale è escluso, egli agisce senza essere notato. In un contesto di vita in cui si negano Dio e la sua legge morale, lui si muove come un pesce nell'acqua. Le anime senza luce e prive delle armi della santa battaglia sono una preda predestinata. Sedurle con i beni materiali per poi incatenarle col peccato, per lui è la più facile delle imprese. Oggi Satana si muove come un pesce cane in un allevamento di sardine. Fa stragi come e quando vuole. Per quale motivo? Perché oggi noi viviamo in un clima culturale in cui il soprannaturale è escluso, in cui si nega l'esistenza di Dio e la legge morale, e quindi per Satana è facilissimo, in cui si nega l'esistenza del demonio, per Satana è facilissimo sedurre le anime senza luce, prive delle armi della battaglia, le seduce con i beni materiali e le tiene sue schiave senza che loro neanche se ne accorgano. Anzi, credono di essere libere. Sono schiave del maligno e dicono che sono libere. Chi non espugnerebbe un esercito che ha deposto le armi e impigrisce nell'ozio, nella ingannevole convinzione che il nemico sia lontano o addirittura inesistente? Mai, come oggi, scrivo, il mondo è stato in pericolo, perché il nemico dell'uomo si aggira indisturbato, dove e come egli vuole, senza che nessuno dia l'allarme. E quindi Satana oggi, lui e il suo esercito, in una situazione estremamente propizia, perché si nega la sua esistenza, la sua presenza, la sua pericolosità, e soprattutto la gente, senza la luce di Dio e la forza della legge morale, tutta protesa ai beni materiali, diventa facile preda delle sue esche. La scrittura chiama Satana il serpente antico, Apocalisse 12,9. Non sappiamo con certezza perché il libro del Genesi abbia scelto questa immagine, cioè del serpente, per raffigurare il tentatore. La sua tattica discreta e silenziosa è tuttavia ben rappresentata dalle mosse del serpente, che si nasconde e si mimetizza, infilandosi anche nelle fessure più piccole. A me ha sempre fatto molta impressione un messaggio della Regina della Pace, che non è fra quelli del 25 del mese, neanche del giovedì, era lavato a Ivan una sera sulla montagna, e ero presente anch'io, dove la regia della pace diceva: Satana vi cerca e vi desidera, lui basta una piccola fessura. Mi è sempre colpito questo fatto: lui vi cerca e vi desidera, lui basta una piccola fessura. Ecco, lui vede questo modo di fare suo, silenzioso, nascosto, sinuoso, è ben rappresentato proprio dalle mosse del serpente, che si nasconde e si mimetizza, infilandosi anche nelle fessure più piccole. Egli non ha bisogno di grandi varchi per penetrare nella fortezza del tuo cuore. A lui basta un tuo difetto, un tuo vizio capitale, ti studia a fondo, gli basta un piccolo buco, lo allarga finché è entrato. Poi, quando è entrato nella tua anima, fa strage. Quindi non ti assalta con... non annuncia la sua presenza come fanno gli eserciti, no? Con le trombe, no? Non cinge l'assedio, ma furtivo, immaginate voi l'assalto a un castello medioevale, no? Non fa l'assalto classico con l'esercito che circonda, che piazza tutti gli armamentari per abbattere le mura, le scale, i cannoni, eccetera, no? Per assaltare la fortezza. No. Lui studia bene, la studia bene, gira intorno senza che nessuno se ne accorga, la studia bene la fortezza che sei tu, ti studia bene a fondo, ti trova il tuo difetto, lì ti attacca di nascosto, gli basta un buco ed entra dentro e fa strage mentre gli altri dormono, mentre tu dormi. Quindi egli non ha bisogno di grandi varchi per penetrare nella fortezza del tuo cuore. Non ama gli assalti annunciati col suono della tromba. Egli ti studia in silenzio e a tua insaputa. Poi non lo vedremo a suo tempo, cari amici. Non assalta, per esempio, Gesù nei 40 giorni in cui prega nel deserto. Aspetta la fine. Prima lo studia a fondo e vede che non c'è nessun varco per entrare, nessun buco per entrare, nessun aggancio. Però si accorge che dopo 40 giorni ha fame, allora sfera l'attacco, lì sulla fame. Gli è sembrato, a lui è sembrato di vedere un pertugio e dice: perché non ordini a queste pietre di diventare pane? Quindi vedete come Satana non ha saltato subito Gesù, ha aspettato. Egli ti studia in silenzio, studia a fondo le tue tendenze, le tue debolezze, le tue negligenze, le tue tepidezze, i tuoi vizi. Egli ti studia in silenzio e a tua insaputa. Capito? Quando c'è silenzio in giro, io dico: Madonna, dammi tu la luce. Quando invece fai dispetti, da quando abbiamo iniziato a fare questo corso con Radio Maria, li ha moltiplicati in tutti i modi, ma io sono tutto contento, perché quando lui è arrabbiato vuol dire che le cose vanno bene. E quando c'è silenzio totale, che è pericoloso, perché vuol dire che sta studiando la situazione. Egli ti studia in silenzio e a tua insaputa. Il suo occhio acuto vede anche il più piccolo pertugio dove passare. Attende che tu dorma, cioè che tu magari non preghi più, ti raffreddi nella preghiera, ti raffreddi nella pratica della virtù, attende che tu dorma e poi lentamente si insinua. Quando ti rendi conto della sua presenza, è ormai troppo tardi per sfuggire al suo morso velenoso. È che, come vedremo, lui ti morsica e neanche ti accorgi che è lui. È troppo astuto. I più grandi peccatori che sono sui prigionieri neanche sanno che lui esiste. Il regno del maligno è presentato dalla parola di Dio come il regno delle tenebre. Satana ama il buio perché in esso si può nascondere. La sua abilità consiste nello spegnere le luci vere che Dio ha acceso nel mondo, le luci della coscienza, della verità, quella grande luce che è la Chiesa Cattolica. Sono la luce della verità, la luce della coscienza, la luce della santità. Lui ha bisogno di spegnere tutto perché sia buio totale e così lui fa stragi totali. Finché tali luci sono accese e la loro fiamma arde forte e vigorosa, è più facile anche agli uomini più sprovveduti scorgere le sue insidie. Finché c'è chi denuncia il male, finché ci sono le luci dei sacerdoti che parlano chiaro, della Chiesa che parla chiaro, dei genitori che parlano chiaro, eccetera, per lui è più difficile muoversi apertamente. Perché? Perché gli altri, grazie a queste luci accese, possono scorgere le sue insidie. Ma se egli riesce a spegnere una dopo l'altra, e si dà da fare per spegnerle tutte, specialmente attraverso il potere massmediatico, e la potenza delle tenebre avvolge ogni cosa, allora guai alle anime, perché il tenebroso potrà salirle a suo piacimento, senza che esse possano difendersi. I seguaci del maligno sono come lui. Qui abbiamo visto come opera il maligno nelle tenebre, nell'ambiguità, nascondendosi, ma i suoi amici, cari amici, sono come lui. Sono ambigui, parlo degli uomini, magari anche, hanno anche la veste, e si celano sotto false sembianze. Amano agire di nascosto senza che tu te ne renda conto. Magari si presentano come amici, no? L'amico che ti dà l'ecstasy dopo. Tengono meno occulti i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro opere di morte. Si insinuano pian piano nella tua vita senza dare dell'occhio. Tu rimani perplesso e ti chiedi più volte chi siano. Ricordati, caro amico, che le persone che appartengono a Dio sono sempre limpide e chiare nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Agiscono nella luce e nella verità, mentre i figli del maligno si muovono nelle tenebre, nella penombra, nell'ambiguità, nella falsità, nei doppi sensi, nelle doppie facce. E quando meno te l'aspetti, senti il dolore acuto del loro morso velenoso. Per questa mattina, cari amici, mi fermo qui. Mi propongo nel prossimo appuntamento di approfondire questo ultimo passaggio, e cioè come si muove, abbiamo visto come si muove il maligno, vedremo meglio come si muovono i seguaci del maligno.